Europa 24. Sono le 14, un minuto, un saluto da Gigi Donnelli. Dunque, come vi ha anticipato Simone Spezia, questa edizione si occupa di fatto integralmente di quanto è in corso in Lussemburgo. Allora direi di partire proprio da questo centro di fatto di molte delle attività dell'Unione Europea con il servizio di Beda Romano, il punto su questo incontro dei ministri degli esteri. L'ultimo incidente di un barcone di migranti nel canale di Sicilia ha provocato vive reazioni politiche in Europa. Oggi qui in Lussemburgo si terrà un incontro dei ministri degli esteri, a cui si aggiungeranno in via straordinaria anche i ministri degli interni. Si discuterà della situazione in Libia e di come contribuire alla stabilizzazione politica del Nord Africa, regione di transito di molti migranti diretti verso l'Europa. Nel contempo, in agenda c'è anche il futuro di Frontex, l'agenzia europea di controllo delle frontiere europee. La presidenza lettone dell'Unione ha chiesto stamani un aumento delle sue risorse in modo da aiutare anche i paesi in prima linea nel controllare l'arrivo di migranti nelle acque del Mediterraneo. Il momento è delicato. Tutti i paesi europei sono sensibili alla questione dell'immigrazione clandestina, ma mentre alcuni stati membri premono per soluzioni europee rapide e incisive, altri sono più restii, concentrati su priorità diverse. Concretamente, nuove misure potrebbero prevedere un rafforzamento di Frontex fino a dotarlo di un impegno chiaro nella ricerca e nel salvataggio in mare, un mandato che oggi l'Agenzia europea non ha. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. Insomma, l'Europa deve fare di più e su questo sono tutti fondamentalmente d'accordo. L'Italia non deve essere lasciata sola, questo aggiunge invece il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, perché dice tra l'altro in gioco la reputazione dell'Unione Europea. Gli fa eco l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini. Di fronte alle tragedie di questi giorni, molti dicono l'Unione Europea non ha più alibi. Allora noi abbiamo voluto sentire due europarlamentari, lo ha fatto per noi Anna Marino. Cominciamo da cosa pensa, da qual è la proposta di David Sassoli, responsabile dei deputati socialisti e democratici. Subito una proposta utile, quella lanciata dal Premier Renzi di un vertice europeo, ma io penso che bisogna andare oltre. L'Europa non può stare a guardare e credo che sia necessaria subito una task force tra i paesi del Mediterraneo per gestire questa emergenza, senza limiti di spesa, perché abbiamo capito che il problema di mettere insieme le risorse comporterebbe un'ulteriore dilazione. Noi abbiamo bisogno invece di interventi subito efficaci. Siamo passati da Mare Nostrum a Triton con impegni, indicazioni diverse. Oggi noi abbiamo bisogno di salvare le persone, un intervento urgente. E se non ci sarà questo, conteremo probabilmente altri morti anche domani. Come sarebbe possibile in pratica mettere appunto una tale soluzione? Abbiamo due commissari, il commissario agli affari interni e il commissario alle emergenze umanitarie, che dovrebbero costituire subito una task force. Ecco, si dice tanto l'Europa è l'Europa, però l'Europa è fatta appunto di ministri e di diversi paesi. Come bisognerebbe fare anche per renderla più unita? Poi c'è una scelta politica. Qui il problema delle frontiere, il problema dell'immigrazione sono politiche nazionali che devono essere trasferite in Europa. La politica dell'immigrazione è ancora una politica nazionale, il problema dei confini è problema di politica nazionale, questo trasferimento è assolutamente urgente, altrimenti che cosa avremo? Avremo un'Europa che mette insieme finanza, economia, ma non sa dare risposte a fenomeni come questo che vanno a toccare profondamente il nostro futuro. Insomma, trasferimento di potere, questa è la linea appunto di David Sassoli. Sentiamo adesso Roberta Angelilli, che tra l'altro è vicepresidente del Parlamento Europeo. Sicuramente l'Europa deve fare di più, altrimenti davvero ci si chiede a cosa serve far parte di un'istituzione internazionale. L'Europa dovrebbe mettere a disposizione non soltanto più finanziamenti per gli stati, ma anche mezzi. Io voglio ricordare che la sede di Frontex che è l'Agenzia per il controllo delle frontiere esterne, è a Varsavia, quindi a circa 3.000 chilometri dal fronte caldo, cioè il Mar Mediterraneo, in cui avvengono le tragedie che abbiamo purtroppo per l'ennesima volta dovuto constatare in questi giorni. Un'Europa lontana, e quindi in pratica all'indomani di questa tragedia quale sarebbe il primo intervento? Più mezzi, più uomini, tutte le strumentazioni più moderne, all'avanguardia di sorveglianza, ma soprattutto un aiuto sul fronte di partenza, quindi non soltanto sulle zone di approdo. Quindi questi barconi della morte vanno bloccati in partenza. L'Europa è il primo contributore netto in termini di aiuti umanitari, aiuti allo sviluppo, quindi finalizziamo queste risorse ingenti per prevenire queste tragedie. Bene, con questo è tutto per l'appuntamento di Europa 24, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.